Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando Maridia ai microfoni e vi accoglie anche questa sera per una puntata di Brussellando che questa sera sarà dedicata ad una sezione della penna del diplomatico. Anche se il nostro ospite non è un diplomatico, l'argomento di cui parliamo è l'Europa, siamo a Bruxelles, Brussellando prende proprio il nome da Bruxelles, quindi ci fa piacere ricordare di tanto in tanto anche quello che accade intorno a noi. E sono particolarmente contenta perché parliamo di un tema veramente caro, perché riguarda le relazioni tra l'Italia e le istituzioni europee, quindi l'Europa. E questa sera ne parliamo con Roberto Santaniello. Roberto, benvenuto. Buonasera Mary D, devo ricordarmi Mary D. Ti ringrazio, preferisco la versione italiana. Mary sì, D, sì. Scusa. Ora ci mancherebbe. Eccoci. Roberto è funzionario della Commissione europea, ha lavorato quasi sempre nelle relazioni italo-europee, giunge tra l'altro da un'esperienza al Comune di Milano, quindi molto importante e significativa, in vista del prossimo Expo, l'Expo del 2015. 2015, con già alcune puntate sul semestre di presidenza italiana. Esatto, che è l'evento che più insomma ci riguarda da vicino, soprattutto a noi italiani e soprattutto noi che siamo qui di stanza a Bruxelles. Allora Roberto, intanto saluto Dani M in regia per la parte tecnica. Buona serata a tutti. E i nostri Fiordaliso e George che arriveranno, quindi sono in strada. Ha iniziato a piovere, quindi probabilmente impiegheranno qualche minuto in più. Allora, Roberto, benvenuto, sono molto molto contenta di averti nostro ospite. Tra l'altro mi piace molto il titolo che sveliamo tra un secondo, che non è però, come alcuni potranno immaginare, un film di Ettore Scola, ma C'eravamo tanto amati, Italia, Europa. E poi, edito dall'Università Bocconi, attualissimo, sebbene sia stato pubblicato lo scorso anno. Quindi, io sono stata particolarmente toccata dal libro, uno perché hai parlato di tematiche non facili, due perché l'hai fatto in una maniera veramente divulgativa e quindi è utile anche per noi che siamo qui ricordare un po' quello che è stato il viaggio delle istituzioni europee, perché oggi focalizziamo l'attenzione soltanto su degli aspetti dimenticando che il processo che è stato lanciato qualche tempo fa è un processo di integrazione che riguarda l'Italia ma riguarda anche tutti gli altri stati membri, ricordiamoli, dallo scorso luglio ben 28. Il testo tra l'altro beneficia di una lunga prefazione di Romano Prodi che ricorda il suo impegno da Presidente del Consiglio e da Presidente della Commissione Europea, teso a far avanzare l'Europa sulla strada per l'appunto dell'integrazione. Roberto, quindi è un periodo difficile questo 2014, è cominciato un po' sotto i riflettori delle voci polemiche, fra poco rinnoveremo quelli che sono i rappresentanti del Parlamento Europeo, sono tanti i dibattiti, non solo a Bruxelles ma credo un po' dappertutto, in Inghilterra, in Ungheria, in Grecia, un po' dappertutto si parla di Europa, comunque in un modo o in un altro. Secondo lei cosa significa Europa per gli italiani e soprattutto che cosa può dare oggi? Che cosa significa Europa oggi per gli italiani, una cosa alla volta. Allora, innanzitutto di nuovo grazie Mary D, così non comincio a fare pratica del tuo nome. No, permettimi anche di ricordare che questo libro non è frutto della mia penna, ma è frutto anche della penna di Pier Virgilio D'Astoli, che è il presidente del Movimento Europeo Italiano, sì. E chi ha conoscenze di questione europea, da quando si parla di D'Astoli si parla di Altiero Spinelli, certo. E quando si parla di Altiero Spinelli si parla di Europa e si parla di una certa Europa. Mm-hmm. Ricordiamoci che sono 30 anni, il 14 febbraio, quindi pochi giorni fa, che Altiero Spinelli riuscì in un miracolo a far adottare il suo progetto di trattato istituente l'Unione Europea ben 20 anni prima poi del Trattato di Maastricht, che è una pietra fondamentale nella storia dell'Unione Europea e credo che l'Italia, adesso rispondo naturalmente alla tua domanda, debba partire da questa tradizione. Uh-huh. Per riprendere un cammino che sembra oggi un po' smarrito e in questo senso mi fai una domanda da oggi molto difficile sulla quale rispondere. Cosa pensa l'Europa, l'Italia dell'Europa? Beh, dopo i bombardamenti di una certa comunicazione e la mancanza di risposte a questa comunicazione, gli italiani e non solo sono francamente, e uso un understatement, smarriti rispetto a che cos'è il progetto europeo e qual è la forza mobilitante di un progetto che ha avuto e che continua ad avere nella vita di quotidiana di tutti noi una valenza importante. Certo, a volte sembra scontato dire che l'Europa ha vinto la pace, e in Italia lo si accorge soprattutto assistendo alle giornate della memoria, cioè quando uh-huh. si parla dell'Olocausto, e dobbiamo ricordarci dell'Europa quando, magari in maniera inaspettata, gli viene attribuito il premio Nobel. L'Europa è tutto e qualcosa di più, e forse quando si vuole conservare appunto la memoria storica dell'Olocausto, delle grandi disgrazie dello scorso secolo, bisognerebbe anche cominciare a pensare a rinnovare la memoria di cos'è il progetto europeo. E gli italiani in questo senso sono molto smarriti, e occorrerebbe che tutte le forze politiche, sia di sinistra che di destra, le euroscettiche eccetera, cominciassero a farsi un esame di coscienza e a prendere atto che senza l'Europa non si va avanti, e gli italiani sono ancorati a questo progetto di pace e, tutto sommato, anche se è molto difficile dirlo oggi, di prosperità. La ringrazio di questa sintesi veramente essenziale anche del libro, perché il libro si concentra su tre temi importanti. Come abbiamo visto, il primo è proprio quello sul processo di integrazione. Infatti lei definisce il progetto europeo come un cantiere ancora aperto, sempre in movimento e sempre proiettato verso nuovi obiettivi e nuove sfide. Quindi, rifacendomi anche a quello che scrive Romano Prodi nella prefazione, ci eravamo tanto amati giunge in un momento estremamente delicato per il vecchio continente, in cui il sentimento di paura agita il sonno non solo degli italiani, ma anche della maggioranza dei cittadini europei. Secondo lei, in che modo la paura, il timore, lo smarrimento, come diceva lei prima, potrebbe influenzare le scelte degli italiani sull'Europa? Le scelte degli italiani e degli allargo il campo, e degli europei, perché i dati sono abbastanza preoccupanti. Il Partito della Libertà nei Paesi Bassi, che è uno dei partiti più fortemente euroscettici, avrebbe la maggioranza in questo momento. Quindi di euroscetticismo, di europessimismo, di quello che si vuole, in questo momento ne è piena l'Europa. Il senso del libro, di questo messaggio, cioè che potrebbe sembrare disincantato, cioè appunto qualcosa che non ci sarà più, in realtà è esattamente l'opposto, è un atto d'amore verso rispetto all'Europa. Cioè quando ci si trova di fronte a questi problemi, spesso uso non a caso questo termine, smarrire, perché l'Europa deve ritrovare un cammino e lo deve trovare in comune, e le prossime elezioni europee, ripeto, sono determinanti affinché tutti ritrovino quello spirito di solidarietà e di coesione che ha caratterizzato il progetto della costruzione europea. Questo è fondamentale. Quindi, rifacendomi sempre alla prefazione di Romano Prodi, nonostante tutto abbiamo ancora bisogno di Europa, c'è ancora bisogno di Europa, però probabilmente è anche vero che è necessaria anche una riforma delle istituzioni stesse, perché molto spesso passano dei messaggi errati. In genere gli eurocrati, già chiamati in questo modo, i funzionari sono tacciati soprattutto di guadagnare tanto e di portare poco. Quindi mi sembra di intravedere che ci sia anche un problema di valori, e la parola valore non è scelta a caso. Quindi, secondo lei, quali sono i valori che l'Italia potrebbe trasmettere all'Europa, e quali invece l'Italia ha bisogno di apprendere dall'Europa? I valori, naturalmente, è una parola importante, spesso dimenticata, che fa parte, come dicevo prima, di un progetto. L'Italia è un paese importante e deve continuare ad esserlo e provarci ad esserlo. Non è un caso parlavamo di un momento delicato, è un momento molto lungo dal punto di vista della delicatezza, perché dal 2008 che i capi di Stato e di Governo, che le istituzioni comunitarie pensano, riflettono, traccheggiano, non decidono. L'Europa ha bisogno di decisioni e possibilmente ha bisogno di decisioni che siano favorevoli ai cittadini, visto che la disoccupazione non è un'invenzione nostra, che la mancata crescita non è un'invenzione nostra, ma sono dei dati che ci ricorda continuamente il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, la stessa Commissione Europea. Quindi il discorso è di ritrovare la natura fondante della costruzione comunitaria attraverso i suoi valori. Avevo parlato di pace, avevo parlato di prosperità e avevo parlato di progresso, che sono le parole magiche che i nostri padri fondatori, i vari De Gasperi, Adenauer, Spack, eccetera, hanno portato in dote e nella loro visione, utilizzo una parola e la userò spesso, visione dell'Europa. Beh, credo che chi ci governa dovrebbe ritrovare rapidamente, avere uno scatto d'orgoglio e cercare di ritrovare quella visione chiaroveggente che ci ha permesso di superare degli ostacoli. L'Europa alla fine ce la fa sempre, cioè trova sempre le soluzioni e le strade per riuscire, però ci sono alcune crisi sulle quali bisogna agire più rapidamente e con maggiore incisività, non gli uni contro gli altri, ma tutti insieme agli altri, per intenderci, non contro la Germania, ma insieme alla Germania. Chi vuole capire, capisce. Fra l'altro vorrei citare una parte, una piccola parte del libro, dove infatti si dice che Adenauer scrisse le sue memorie: non ho mai dimenticato che il governo italiano si era schierato con decisione a favore del reinserimento della Germania nella comunità delle nazioni europee. Infatti lei scrive che non bisogna avere paura della Germania, anzi al contrario, bisogna andare incontro alla Germania. Sì, non so se lo scrivo io o lo scrive Romano Prodi. No, lo scrive nella relazione. Sì. Sono assolutamente, non posso non essere in disaccordo. Ognuno può essere anche in disaccordo con se stesso. Non so quando ha scritto il libro, quando l'ha terminato. C'è stato qualcosa che ha cambiato, qualche idea che ha cambiato dopo aver finito il libro? Dice: ah, questo è cambiato. Dunque, il libro doveva uscire prima delle elezioni italiane. Cioè, stiamo parlando di ormai di un anno fa, quando fu, aiutatemi. A febbraio. 24-25 febbraio proprio 2013. Proprio perché avevamo avvertito insieme a Pier Virgilio D'Astori che la campagna elettorale politica della Camera e del Senato avrebbe potuto risentire, poi lo è stato un po' di meno, dei temi anti-europei. Non sta a me fare una panoramica delle forze in campo, di cosa pensava il Movimento dei 5 Stelle, che in quel momento aveva organizzato anche, voleva organizzare un referendum contro l'euro, un certo scetticismo da parte delle forze del centro-destra, le questioni del revisionismo, della revisione del patto di stabilità e del fiscal pact da parte delle forze di sinistra. Insomma, ci appareva un momento importante in quel momento dare un senso all'appartenenza del processo di integrazione dell'Italia durante questi ultimi 20 anni, perché curiosamente il trattato di Maastricht, che è stato votato, entrò in vigore nel 93, ha seguito la parabola italiana dalla fine della Prima Repubblica all'inizio della Seconda e forse all'alba della Terza. Questo ce lo diranno i nostri cugini, i fratelli. Vedremo. In questo senso probabilmente il tema dell'Europa ancora una volta è stato utilizzato in maniera sbagliata, solo contro. A noi piacerebbe che, parlo anche a nome del mio coautore naturalmente, che questa Europa fosse veramente al centro dei dibattiti e delle discussioni della prossima campagna elettorale del nono Parlamento eletto a suffragio universale. Allora una domanda al volo: più Europa o meno Europa? Così, la lancio così adesso, anche se poi ci sono altre domande. Ormai è un'Europa di qualità, cioè io credo che ormai abbiamo lavorato molto in quantità, si può discutere se l'allargamento ci abbia aiutato o meno, Però credo che adesso ci voglia un'Europa di qualità, un'Europa fatta con più passione, con più, non dico che noi che lavoriamo, noi professionisti, io mi ci metto tra questi, non lavoriamo con passione e con competenza, ma ci vuole un po' più di attenzione, di cura. A forza di averci con l'Europa, chi lo fa in maniera strumentale alla fine ci crede, anche se non, sì. Anche se non è così. Sì. E quindi sì. Secondo me sì. È ritornare ad amare questo progetto giorno dopo giorno con un po' con cura e passione, con meno freddezza e anche un po' più di emozione. E credo che tutti ne troverebbero giovamento, e questo lo si può fare in questo momento contrastando con parole, con riflessioni, con il ragionamento, con il dialogo, con il confronto, coloro che oggi dell'Europa non vogliono saper parlare, non vogliono sentirne parlare, e purtroppo ce ne sono eppure troppi. Sì. Eppure troppi. Sì. Tra l'altro, tra gli altri slogan che si possono ritrovare proprio leggendo il saggio è euro sì, euro no. Quella è anche un'altra delle tematiche che si ritrovano per l'appunto nel... Sì, comunque, la risposta è qualità, sì, cioè assolutamente. Qualità nei processi politici, qualità nelle persone, nei procedimenti. Cioè, qualità significa sostanzialmente trasparenza, pluralismo, democrazia. Non, cose che sembrano scontate, ma che no, vanno ripetute, e soprattutto anche fatte proprie, perché sì. Questo è anche uno degli elementi essenziali. Tra l'altro, infatti aggiungerei anche il coraggio delle idee, non so se Maria è d'accordo. Beh, lì apriremo una parentesi, mio caro, tu lo sai quanto per noi le idee siano importanti. Sì, quindi sì, fondamentali. Giorgio non era qui con noi in inizio di trasmissione, ma era proprio quello che Sant'Agnino ci raccontava, avere proprio una visione, avere una visione anche... è alimentata anche alla forza delle idee, potenza del sogno. È quello che nel libro c'è, ed è più volte sottolineato, che occorre ritrovare i visionari dell'Europa, che non sono i pazzi scatenati, per intenderci. Sì, sì, capito. Le visionaire, nel termine più francese. Bello francese, cioè quelli che hanno una visione, un modo di vedere le cose tale da aiutare a rimetterci in cammino. E credete, l'Europa ha bisogno di rimettersi in cammino. L'Europa esportava valori, oltre che merci e servizi. Oggi importiamo valori, no? e non sono necessariamente i valori. Posso dire una cosa? Oggi incassiamo valori. Incassiamo valori, spesso, cioè, appunto, quando si parla, per esempio, ormai di prospettiva, di politica sociale, eccetera. Adesso c'è questo termine, modernizzare i sistemi sociali europei. Che vuol dire? Nessuno l'ha capito. Cioè, vuol dire sostanzialmente tornare indietro. Lo si può anche fare, tornare indietro, ma in un certo modo, con un certo stile, con una certa classe e soprattutto con contenuti chiari che lasciano comunque a chi ha avuto diritti di poterne usufruire in maniera, ancora una volta uso questa parola che mi sono inventato stasera probabilmente, di qualità, e che consenta a tutti di ritrovare un benessere che era sostanzialmente il vero leitmotiv del progetto. Tra l'altro c'è una cosa molto bella che mi viene proprio in mente adesso, è quella di continuare veramente a credere in questo progetto, perché credo che poi siamo veramente noi a fare la differenza. Ma comunque proseguiamo, come vedete sono tanti gli argomenti, ahimè in radio il tempo è tiranno. Allora, abbiamo detto già all'inizio che il 2014 è l'anno del rinnovo del Parlamento, e il saggio è molto interessante perché non descrive semplicemente il viaggio fatto finora, ma anche il cantiere delle riforme istituzionali, quello che inevitabilmente si aprirà dopo le elezioni, quindi dopo il mese di maggio. Quindi secondo lei, restando sempre in termini di parallelismi Italia-Europa, quale Italia conviene all'Europa e quale Europa conviene all'Italia a questo punto? Sì, con Pier Virgilio D'Astoli abbiamo fatto riferimento a un convegno che ebbe un certo impatto agli inizi degli anni Ottanta, in cui faceva parte di questo convegno tutti i maggiori europeisti italiani, da un giovanissimo Mario Monti a Amato, ancora abbastanza giovane, che però avevano idee chiare, e in particolare animato da Franco Modigliani, e ma il convegno era che l'Europa conviene, e la risposta naturalmente fu positiva, e stiamo parlando degli anni 80, quando fu creato il mercato interno, quando furono eliminate le frontiere. Quale Europa conviene all'Italia e quale Europa e quale Italia conviene all'Europa? Certamente all'Europa conviene una Italia che sappia riprendersi dal suo smarrimento, e che può significare tante cose. Per alcuni è la stabilità, per altri è invece la capacità di innovare. Insomma, sostanzialmente ritrovare un'Italia che sappia finalmente essere leader dell'Italia, dell'Europa e nel mondo. E all'Italia serve un'Europa sostanzialmente democratica, aperta, trasparente, in grado di riprendere il cammino che ci aveva indicato Altiero Spinelli. Questa può sembrare una cosa semplice, ma è di grande complessità, e occorre un impegno da parte di tutti. Oggi, peraltro, è uno dei, in questo senso il libro è abbastanza chiaroveggente, perché guarda caso quello che sta accadendo, non sono un politico e non ambisco a esserlo, però leggo tutto quello che accade, e beh, sta accadendo che ancora una volta, lo vedremo nelle pagine dei giornali domani, che si sceglie, e d'altro canto è stato anche il messaggio che più o meno in controluce è stato dato all'intervento che Giorgio Napolitano ha fatto a Strasburgo non meno di due settimane fa, cioè quello di riuscire a trovare un nuovo equilibrio tra rigore e crescita. Ed è la stessa cosa che il presidente del Consiglio in pectore cercherà di mettere e di tradurre nei suoi colloqui preliminari dopo che verrà formato il governo. Quindi ritorniamo sempre su questo punto. Ma per essere credibile, e l'Italia lo può essere credibile, e questo prendo a prestito le parole di Romano Prodi, bisogna che torni a fare la formichina piuttosto che la cicala. E cioè quindi lavorare affinché i suoi fondamentali siano sani, e perché solo da questo presupposto si può crescere e finalmente ritrovare un sentiero di prosperità forte. No, mi viene in mente che in Italia abbiamo la parola cicaleccio, quindi forse non so se c'è nelle altre lingue, però in italiano c'è cicaleccio, quindi abbiamo un po' la tendenza a fare la cicala. Però ritorno allora un passo indietro, perché è stato annunciato, cioè un'Italia che ha bisogno di temperare il rigore e la crescita, e parlavamo prima di qualità. Allora io vorrei chiedere un pensiero sul rapporto fra qualità e i valori di oggi, valori e società. Cioè l'Europa rispecchia in qualche modo quello che sta accadendo nella società comune, quello che sta accadendo in tutti i paesi, l'evoluzione, la cultura che si sta sviluppando nei paesi, positiva, negativa, con tutti i suoi aspetti. O è qualcosa di diverso? Cioè la crisi europea comunque è separata dall'evoluzione culturale? Beh, bella domanda, e ci vorrebbe una trasmissione di... parecchie, mi sono reso conto, probabilmente ci vorrebbe più un Franco Ferrarotti europeo che un Roberto Santaniello di Bruxelles in questo momento. Però proviamo a dare un'interpretazione, anche perché naturalmente io ho anche, diciamo tra virgolette, degli obblighi istituzionali rispetto alla mia istituzione di appartenenza, che è la Commissione europea. Possiamo dire che in questo momento ci sia una mancanza di sintonia, questo lo si può dire, che non riguarda solo la Commissione, ma riguarda l'Unione Europea nel suo insieme. È una mancanza sintonia, di la mancata sintonia che rispecchia una lontananza culturale tra i rappresentati e i rappresentanti. Come spesso accade, e come spesso i sociologhi e i politici ci dicono, c'è un rapporto bidirezionale. Io sarei tentato di dire che le élite devono ritornare ad essere élite illuminate e a cominciare ad avere meno paura dei sondaggi e a dirigere responsabilmente attraverso processi democratici una società che appare smarrita. E appunto forse qualche messaggio in più e in difesa dei valori europei non sarebbe male. Non ho fatto, spero di aver risposto assolutamente, anzi certo. si apre la porta poi a quella che è la terza tematica del saggio, che fa proprio riferimento alle ansie identitarie delle persone, che è legata per l'appunto a tutto quello che abbiamo detto finora, alla riforma del modello economico, alla riforma del modello sociale, a una politica sociale che veramente non capiamo dove vuole andare. Quindi queste sono questioni, io credo, che prima o poi devono essere affrontate e risolte in un modo o in un altro, perché i cittadini, credo tutti, hanno diritto ad avere delle risposte. Quindi io avrei ancora altre due domande in merito, perché nel capitolo 15, quindi andiamo già verso le conclusioni, c'è un lungo elenco di opere urgenti di manutenzione, chiamiamole ordinaria, come si dice per l'appunto nel saggio, con particolare attenzione alle risorse finanziarie che sono destinate poi alle politiche europee, che sono state per l'appunto recentemente votate. E ci sono obiettivi che non sono ancora realizzati nel Trattato di Lisbona. Magari potremmo elencare brevemente qualcosa in merito a queste tematiche un anno dopo aver approvato il budget. Grosso modo, non è proprio un anno, ma ormai le nuove prospettive sono state votate. Mi stai Mari. Giusto, Maridì, no, perché grandissima Maridì, no, sono sempre tentato di chiamarla Mary. Vabbè, stasera posso fare una eccezione, deroghiamo alla norma. Vuoi diventare Mary per sempre? Cioè, mi stai chiedendo quale politiche possono essere sviluppate? Sì, esattamente. Allora, guarda, un'opinione spassionata, personale, sulla base della tua esperienza. No, nel senso che io ormai mi sono reso conto che ci sono due grandi ambiti su cui l'Unione Europea debba agire. Uno sul quale siamo certamente all'avanguardia, e non vorrei che per essere all'avanguardia cominciassimo a pensare che non va bene fare così, e i segnali si vedono nell'ultima comunicazione che è stata presentata sulla lotta ai cambiamenti climatici. E già ho detto troppo, vedo Mari che sorride. Devo dire che l'Europa ha dei parametri alti su questo, che spesso oggi sembrerebbero in qualche modo messi un po' in discussione. E su questo bisogna lavorare, cioè, voglio dire, come tutte le cose che hanno una prospettiva, questa è la prospettiva che consenta ai paesi dell'Unione Europea di ritrovare un sentiero di crescita forte, possibilmente sano e sostenibile. E l'altro, non c'è altra possibilità che la mobilità professionale, che è il vero grande limite della costruzione comunitaria. Si muove tutto meno che i lavoratori, non si muovono solamente per vincoli amministrativi e giuridici, ma soprattutto per mancanza di una prospettiva di coesione culturale. E quindi il fatto che manchi ancora un approccio vero che amalgami culturalmente gli europei è una delle grandi mancanze non a caso, però devo dire, non faccio il funzionario comunitario tra virgolette professionista, che la Commissione ha individuato in una degli eventi che si chiamano la New Narrative per l'Europa, l'elemento che possa riuscire in qualche modo a far ritrovare attraverso la cultura le ragioni dell'essere insieme. Come spesso accade, forse c'eravamo tantamati, è un titolo opportuno, un rapporto d'amore va costruito, bisogna investirci sopra, sì, e trovare sempre elementi nuovi e stimoli nuovi. E questo è il cantiere Europa, per cui il cantiere continuerà. Però certe volte dei litigi fanno bene, ma l'importante è avere dei forti valori fondanti insieme, e ricordarsene non fa mai male. Certe volte io ho la sensazione che i capi di Stato e di Governo, che si riuniscono sempre e a volte litigano, dovrebbero cominciare a pensare invece E manca la visione, l'abbiamo perché? Detto prima. Perché siamo qui? Manca l'obiettivo. Che... esattamente. C'è una cosa che mi viene da dire, l'ho detto recentemente da qualche parte, non ricordo più dove. Se chiede a un americano di dov'è, ti dice che è americano. Se chiede a un europeo, c'è ancora l'italiano, il francese, il tedesco e così via. E quello è... peggio, io direi che sono romano. Sì, esatto. Peggio, io direi che quindi... sono romano. Noi italiani abbiamo... di dove sei? Di Gallipoli. Ecco, bellissima. The Art of Europe, se non sbaglio, magari poi Dani M. picchierà, ma di Luca Ruggero Iacovella, è una bellissima canzone. Perfetto, un regalo di circa 7-8 anni fa. Stata la, durante l'inizio, la prima edizione di Bruxellando, 2007-2008. Beh, non ricordiamo troppo gli anni, che no, mi sento perché un po' assolutamente, mi gli anni vecchio, si possono... No, quando mai? Mamma mia. Sempre più giovani. Beh, ritorniamo in studio allora con un ospite graditissimo. Finalmente si parla di Europa, mi piace molto questa trasmissione, mi piace molto l'argomento di oggi. Abbiamo in studio Roberto Santaniello, che ha recentemente pubblicato un libro dal titolo C'eravamo tanto amati, pubblicato da Egea. Italia, Europa e poi. Certo, Italia, Europa e poi. Meridi, avevi un'altra domanda, mi sa. Ma io veramente, visto che abbiamo appena lasciato alle spalle San Valentino, stasera parlavamo di un amore che c'è stato, che forse ritornerà, la mia domanda è, ma questo amore ritornerà allora? La fiamma la riaccendiamo? Beh, innanzitutto è divertente che, io infatti in qualche cosa che ho scritto parlai del trattato di San Valentino, per farlo un po' innamorare, perché il progetto Spinelli del 14 febbraio 1984, sì. Quindi io credo che non è ancora detto che si rimetta mano, cioè nel senso che noi lo diamo per scontato, ma non è ancora chiarissimo. In particolare la Germania vorrebbe fare dei salti in avanti, ma poi ha paura degli altri, in senso di un'Europa federale, sto dicendo, Però io credo che... Ci sono tante sfide a cui siamo... Credo che sia, che, però la Commissione la Commissione e le istituzioni comunitarie dovrebbero ricominciare a parlare un po' col cuore. Lo so che sembra una cosa un po' da un po' spartana, eccetera, insomma, ma cominciare a pensare che non sono soltanto una grande organizzazione internazionale, ma sono soprattutto frutto di un progetto politico che riguarda la vita di tutti noi, che riguarda la vita di tutti, di tanti aspetti della nostra vita, insomma, regolamentiamo, facciamo cominciare anche da chi ci lavora, nel senso, io per esempio mi ricordo un aneddoto che ovviamente mi fu ricordato. E spesso e volentieri i funzionari comunitari vengono messi sotto la gogna perché guadagniamo troppo, perché abbiamo troppo privilegi, eccetera. Beh, io non vorrei arrivare a quello che pare che fecero i traduttori, quando i traduttori dell'Unione Europea mi dissero che negli anni Ottanta volevano scioperare contro un primo tentativo di bloccare gli stipendi europei fu avanzata l'idea dell'indennità di frustrazione. L'indennità di frustrazione non l'avevo mai sentita. Esattamente, che era l'indennità per la quale che tutti i funzionari comunitari, in particolare i traduttori, lavoravano per il bene dell'Europa e per un progetto che non si sarebbe mai realizzato, quello dell'Unione Europea politica, quella una vera federazione europea, per cui dovevano, ed era giusto, ricevere un'indennità di frustrazione per la mancanza del raggiungimento del loro obiettivo professionale. E anche lì si può discutere di frustrazioni direi che basterebbe ovviamente in una grossa amministrazione ci sono sempre quelli che insomma ci sono e potrebbero anche magari non esserci, passatemi questo termine, vengo da una grossissima amministrazione in Italia, quindi so di cosa sto parlando, e quindi è una logica di tutte le grosse amministrazioni. Però se chiedessimo, credo, almeno al 90% dei funzionari europei qual è il loro livello di frustrazione, beh, l'indennità sarebbe forse il doppio dello stipendio. Sì, però io credo che per i nostri amici all'ascolto, magari c'era un'idea che Giorgio aveva avuto prima, possiamo dirla, condividerla con tutti, perché credo che questo possa fare possa effettivamente fare la differenza. Lo dicevamo pure prima, dicevamo è dato per acquisito soprattutto il valore, quello della pace, perché non ci rendiamo conto che fino al 1945 abbiamo combattuto tra di noi. Tra i tedeschi e i francesi, prima di potersi ancora semplicemente dire ciao, sono passati decenni. Invece noi siamo figli del progetto Erasmus, cioè io mi sento comunque europea. E grazie alle esperienze che io ho potuto fare proprio attraverso l'Europa, io vengo da un piccolo paese del sud. Se non avessi avuto il progetto Erasmus, mio padre probabilmente non mi avrebbe mai fatto partire. Con una fede, cioè senza fede al dito, ecco, per dirvi come stanno le cose. Certo. Invece io sono partita con tutti gli onori e gli oneri ovviamente derivanti, perché c'era questa possibilità, questo progetto Erasmus 14 anni fa, e sono partito, ho potuto fare il progetto Leonardo qualche mese più tardi, un anno e mezzo più tardi, quindi sono valori che ritornano per questa nostra gioventù europea, che a volte è smarrita proprio perché probabilmente ritorna alla questione identitaria, perché non abbiamo una forte identità. Ma io credo invece al contrario, ci dicono di non averla, ma l'abbiamo. Il problema è, come diceva prima, possiamo dire a fine di trasmissione Roberto, prima diceva è un vestito malmesso, è un vestito che andrebbe semplicemente, perdonatemi l'eufemismo, stirato e presentato così com'è. Invece è un vestito malmesso, stropicciato da tutti, il primo che arriva pensa di sapere tutto, l'ultimo arrivato magari già lì è con la mano levata perché il bottone magari dovrebbe andare diversamente, ci dimentichiamo invece che la cosa più importante l'abbiamo già fatta, abbiamo superato le differenze, abbiamo superato le lingue, le frontiere, ragazzi. Ma passiamo a messaggi diversi, allora passa ovviamente, c'è un problema anche di asimmetria, no? Pare che i paesi più ricchi si ribellino contro i paesi più poveri, ma guardiamo le cose diversamente, guardiamo tutto quello che... Ecco. C'è una strana inazione che non è ancora... E mi fermo lì perché poi insomma potremmo... O è paura o è... Romano Prodi la definisce paura, qualcun altro la definisce ansia, timore, insomma viviamo in un mondo di pace. Ricordiamocelo, i diplomatici di oggi per fortuna siglano accordi bilaterali, multilaterali, non vanno a Vienna a firmare un'altra volta insomma, come è successo a Vienna nel 1815, si dividevano l'impero, di ridisegnavano confini, noi vogliamo allargarlo questo confine in maniera pacifica. Cioè... E qualcuno è anche spaventato dalla zona di libero scambio Europa... Stati Uniti, c'è anche un'altra, una paura, la paura per l'incerto, voglio dire, però sono... Abbiamo bisogno dell'incerto, se non avessimo l'incerto non avremmo sfide e secondo me non potremmo migliorare per un futuro veramente più roseo e più verde, come direbbe qualcuno accanto a me. Per le sfide, insomma, il clima è un argomento importante, non riguarda solo l'Europa, riguarda tutti noi, le conseguenze climatiche le abbiamo viste, cioè viviamo una primavera in anticipo e, correggetemi se sbaglio, in Belgio viviamo un inverno prolungato, in Italia che non si è mai visto, quindi... A questo dobbiamo trovare delle sfide, dobbiamo trovare delle risposte che debbono essere ovviamente, perdonatemi la parola, multilaterale, non è un accordo che può venire solo dall'Italia, dalla Francia, deve essere un discorso più ampio, quindi va bene, ma... Vogliamo visto che oggi abbiamo superato pure le frontiere, vogliamo dirlo come potrebbe essere da italiani? Non so se... il libro riuscirà a varcare la distribuzione e quindi venga trovato qui a Bruxelles eccetera, però noi facciamo tutti un elenco che non voglio fare perché è irrispettoso adesso, perché qualcuno me lo dimentico, di veri europeisti italiani. Il primo che mi viene in mente per tutta una serie di questioni è Carlo Azeglio Zampi, che secondo me è stato veramente un grande europeista convinto eccetera, ma faccio me ne dimentico altri, faccio torto agli altri, ma vuol dire riprendere quando parlavamo appunto della domanda quale Europa conviene all'Italia e quale Italia conviene all'Europa, significa che abbiamo il desiderio di fare crescere un'Europa più democratica, trasparente, meno rigorosa, più rispettosa della crescita. Beh, non bastano le parole, e non basta solo l'impegno per dirlo. Sì. Significa sostanzialmente a tutti i livelli, a livello diplomatico, al nostro livello anche, fare un'azione di convincimento in tutte le capitali d'Europa, nelle istituzioni comunitarie, incessante, come incessante era il lavoro di convincimento che faceva Altiero Spinelli nelle cancellerie europee. Mi piacerebbe che ci sia uno sherpa del nostro prossimo Presidente del Consiglio che se ne sta in Europa per 24 ore al giorno, tutti i giorni, in tutte le capitali e cominci a scusate che divento comincio questo aspetto di Bruxellando, perché se no il fuoco, il fuoco della passione, perché se no vuol dire si rischia di enunciare degli obiettivi, mentre l'Italia su questo ha una tradizione forte, forte sì. Da dover ovviamente siamo tra i padri fondatori, ricordiamolo, siamo un paese fondatore, siamo tra i padri fondatori, quindi a tal proposito, visto che ormai il tempo, come diciamo noi, a noi piace dire che il tempo Tyrannosaurus Rex il problema è questo, è vero che c'è inazione, forse c'è confusione, beh forse io voglio pensare, voglio essere ottimista. Bruxellando è iniziato 8 anni fa ormai, sette anni fa con un viaggio, è la trasmissione del viaggio, e questo viaggio ancora non è finito. Quando uno parte in viaggio parte sempre verso l'ignoto, prepara qualcosa, però poi quello che capiterà realmente non lo sa. Ecco, io questo, credo che questo momento sia il momento in cui la gente dice, ma sì, sono italiano, ma sono anche europeo. Cioè, italiano quanto europeo? Forse mi perdo, beh, innanzitutto sono di Roma, oppure sono di Gallipoli o di un altro paesello, perché abbiamo paura di, stiamo perdendo forse la nostra identificazione. Beh, allora lanciamoci in questo viaggio. Lanciamoci questo viaggio, perché io lancio una scommessa a qualcuno. Se qualcuno trova il coraggio di fare un mese senza Europa, per far capire anche al più piccolo cittadino che cosa vuol dire essere senza Europa. Una settimana, guarda, io penso già solo una settimana potrebbe bastare. Gli svizzeri lo stanno già facendo, quindi scusate, non lo volevo dire, ma possiamo anche dirlo, è vero, si sta andando indietro. Alle grandi conquiste che siamo stati in grado di raggiungere, come diceva per l'appunto George, però io direi che dobbiamo continuare invece, cioè per quelli che ci credono, sì. Il messaggio deve essere più forti, perché solo attraverso l'unione, come dicono qui in Belgio, cioè la forza che fa l'unione, e l'unione è fatta da singoli che decidono di combattere per lo stesso obiettivo, e io penso che il valore europeo sia un valore che travalica le frontiere, travalica il colore della pelle, travalica le regioni, travalica ogni cosa, perché l'obiettivo comune è il benessere, dicevamo prima, la pace, valori secondo me importanti, anche se probabilmente penserete, come al solito, che vivo ancora nell'antica Grecia, ma sono ateniese di formazione, continuerò ad esserlo, ed è giusto che sia così. Roberto, in conclusione. Mary, cosa posso dire? No, vi ringrazio, spero di presentarvi presto un altro libro. Il mio sogno è di scrivere un libro all'opposto. Scusate, mi ricordo mai come si chiama il famoso poeta tedesco che ha scritto Il mostro buono di Bruxelles. Habermas. No, non è Habermas. Habermas è un santo. Dimmi ancora un'altra volta che lo troviamo. Che inizia con lei, ma confesso la mia ignoranza. Voi che siete dotti di letteratura, è il poeta tedesco contemporaneo più famoso. Non, ma ripetimi solo il titolo. Il titolo è Il mostro buono di Bruxelles. Ok, perfetto, lo scopriremo tra 5 secondi. No, io faccio un'ignoranza, quindi questa volta non lo so. E che diceva questo poeta? Beh, ovviamente fa una critica molto ragionata, molto gentile, ma non per questo tagliente. Sa che volevo anche, sì. Molto tagliente. Sì. Si chiama Hans Magnus Enzensberg. Tra l'altro volevamo intervistarle, ma l'Einaudi non concede in radio le interviste degli autori stranieri. Ed è un libro molto intelligente, adesso stiamo facendo, beh, però l'Einaudi potrebbe anche ringraziarci, perché stiamo facendo una bella presentazione a un suo testo. Assolutamente, anzi li salutiamo. Appunto, è scritto a punta di poeta, ma è una critica severa di alcune cose. Sì. Che il mostro buono di Gentile fa, naturalmente anche lui, come spesso accade, viene confuso dalla complessità o dalla voluta complessità, perché naturalmente anche lui cade come molti del resto su tutte le varie eurobufale che riguardano l'Unione Europea, e mi piacerebbe con lo stesso linguaggio, certo non sono un poeta come lui, non sono così famoso, anche se nessuno di noi se lo ricordava oggi. È un cognome complesso, scusatemi, è troppe consonanti. Mi piacerebbe scrivere una cosa così semplice che lo possa leggere un bambino di 5 anni sorridendo di noi. Però posso dire una cosa, Roberto, veramente è un libro che va letto. lo devono leggere sia coloro i quali lavorano nelle istituzioni, perché ci sono stati dei cambiamenti. Abbiamo preferito, questa sera abbiamo prediletto l'aspetto più divulgativo, ma vi assicuro che non c'eravamo tanti amati, ci sono tante cose che io stessa non avevo capito. Quindi abbastanza con 40B a scrivere, questo è il mio... Quindi comunque sei riuscito secondo me nell'obiettivo. C'è un po' sfuggito di mano perché devo essere più pedagogico. Però quando finisco un libro quasi sempre lo detesto. Questo è un bel libro, è la prima volta che sono contento perché è scritto bene in presente storico. E... allora noi facciamo un sacco di auguri per questo libro, lo spingiamo. Assolutamente, tra l'altro è il momento buono, credo, va bene parlarne. Quindi ricordavamo, c'eravamo tanto amati, Italia, Europa e poi, edito tra l'altro dall'Università Bocconi, quindi Egea Editore, 139 pagine che si leggono in qualche pomeriggio. Sì. Ed sono estremamente interessanti. Bontà vostra. Bene, e adesso, anche se non c'è la pausa musicale, possiamo passare finalmente al nostro angolo. Ci siamo dimenticati di un poeta, ma adesso invece passiamo forse a un autore che magari conosceremo, e quindi Librangolo. Ecco, cioè, stavolta, stranamente, la nostra trasmissione sarà un po' schizofrenica. È un'altra parola che avremmo potuto usare stasera, ma non l'abbiamo usata, va bene. No, va bene. Schizofrenica, ho subito rizzato le orecchie. Però anche la nostra vita è sempre schizofrenica, perché da un lato siamo tutti interessati, ci coinvolgiamo in dibattiti sociali o ci impegniamo al lavoro per certe cose, poi andiamo a casa e comunque andiamo a divertirci un attimino. E quindi anche questa trasmissione sarà un po' così. Abbiamo parlato di ideali, di Europa, di cose, di grandi sfide che ci stanno di fronte, e dopo parleremo del centenario che... saltò dalla finestra e scomparve. Ah, che bello! Tu conosci, allora? Ho letto, sì. Hai letto. Ecco, cioè, si tratta di un libro di Jonas Jonasson che è un po' il fenomeno, un po' diventato fenomeno in questo periodo, in cui si tratta effettivamente di un centenario che un giorno, il giorno del suo compleanno, decide di scappare dalla casa di riposo. Ma insomma non è tanto da essere. Casa di riposo. Casa di riposo. E poi scopriamo che ci sono delle buonissime ragioni per lui per scappare, perché è sempre stato un uomo molto attivo, che coglieva tutte le sfide della vita, che si apriva praticamente ad ogni cambiamento che gli capitava sul cammino. E però dobbiamo anche dire che ha avuto un culo bestiale. Allora, il culo bestiale è una cosa che comunque si può dire. È una cosa che comunque non riusciamo ad invitare, cioè uno può aprire la finestra, fare davvero come questo personaggio, fare di tutto per comunque, cioè lui si aiuta, cioè aiutati e Dio ti aiuta, come si dice, lui si aiuta, però anche il culo bestiale, quindi è un personaggio un po' come Forrest Gump. Però non la versione stupida, ma la versione che ha anche la intelligenza di usare le occasioni che gli si presentano, e che anche lui, come un po' come Forrest Gump, incontra nella sua vita vari personaggi anche storici, dei leader, dei dittatori, o no, dittatori mascherati o dittatori veri, dipende, e praticamente la sua vita si svolge attorno un po' anche l'invenzione della bomba atomica e la reinvenzione della stessa da parte da varie nazioni, e lui in qualche modo molto discreto è sempre nel fulcro degli eventi. Allora, da un lato devo dire che Maridi ride, quindi questa è già una garanzia, vedete, cioè già un libro bello, già c'è una certa raccomandazione, va bene? Te lo consiglio vivamente. E i personaggi che appaiono sono sufficientemente divertenti per giustificare Maridi che ride nell'angolo. Quindi vi raccomandiamo di leggerlo per questa ragione. Però devo confessare che io un po' di delusione ce l'avevo. Perché troppo di culo bestiale secondo me rovina. Magari potremmo fare questa stessa riflessione sull'Europa. Cioè, nel senso, se tutto fosse filato liscio, Dipende da quale punto di vista. Adesso? Dipende da quale punto di vista, però. Aspetta. No, se tutto fosse tirato liscio. È già stata, è una critica. Come dicono i francesi, il coup de boule, no? Dani M, che è più francofono di me, no? È il coup de boule in francese? Sì, coup de boule. Coup de boule, ecco. Diciamo nei francesi che forse suona meglio, no? Come francesismo. Trovo però, tutto sommato, che è storicamente corretto quello che viene scritto nel romanzo, e forse è la caratteristica del personaggio, è proprio quello. È qualcuno ottimista, ritornano i valori, estremamente ottimista, positivo, di quelli che è comunque intelligente e riesce a uscirsene da ogni situazione. Quindi è quello il messaggio che vedo. Poi, come ci dice la nostra Fiordaliso, è vero, gli va tutto bene, ma veramente dall'inizio alla fine, forse solo il periodo, diciamo, di permanenza nella però non possiamo dire chi finisce male. No, anzi i nostri amici soprattutto ne saranno ben lieti, perché il finale è soprattutto molto maschile, quindi quello ve lo lascio. Beh, è l'unica non lo critica, svegliamo. È l'unica critica a questo libro, il fatto che ci sia una parte così romanzata, nel fatto troppa fortuna. Sì, sì, nel senso che tanti cioè, eventi, sì. È divertente, però sì, cioè nel senso che ad un certo punto lo sai che andrà tutto bene, qualsiasi cosa gli succeda tu lo sai già che se la perché caverà. sappiamo che ha questo culo bestiale, quindi ad un certo punto diventa, nel senso, non puoi gettarti nel senso in questo sentimento di oh mi preoccupo per il personaggio principale. Non esiste. E dal suo punto di vista non andate mai in Thailandia. Forse però potrei dire che allora il messaggio non è chissà come andrà a finire, comunque vada sarà un successo, quindi non mi preoccupo del personaggio principale ma mi incuriosisco per vedere di tutti i personaggi collaterali, come riuscirà a uscirne, sì. Che cosa gli sarà nella sorte. Sì, sì. Poi a volte i modi in cui ne esce, cioè non è sempre, diciamo, realistico o sì, o stuzzicante. Soprattutto per chi conosce quegli eventi storici in maniera anche abbastanza precisa. Però è divertente, cioè è divertente, quindi soprattutto la storia sulla bomba atomica, sì. È divertente, è leggera, ma allo stesso tempo secondo me comunque la lezione c'è, perché c'è una ricetta per eventualmente cavarsela un po' meglio nella vita, cioè l'ottimismo serve, l'apertura alle nuove avventure sì che serve, e aiutati che Dio ti aiuta comunque serve. Quindi da bravi, chiudiamo con questo pensiero. Fortuna audaces iuvat. Quindi Jonasson saltò dalla finestra. No, Jonasson, ma il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Ah, bellissimo.